Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Va sul primo palo e Mirante non la tiene. Riscatta una brutta mezz'ora Miralem Pjanic col pezzo forte della casa. La punizione 1-0 Juve. La palla per Mandžukić, controllo col petto di Mandžukić che raddoppia al 36esimo dopo Pjanic. Mandžukić ancora il cross dentro per Khedira, chiude l'under male, poi Matuidi trova il suo primo gol in Italia con un grandissimo sinistro, quello del 3-0. Allora, Juventus seconda in classifica, 41 punti, uno meno del Napoli che ieri ha vinto a Torino, uno più dell'Inter che ieri è crollata per la prima volta in campionato in casa contro l'Udinese, aprendo tanti scenari, tante riflessioni anche per le parole di Spalletti. Lo faremo dopo le 18, quindi vi aspettiamo. Avremo anche Massimo Oddo, l'eroe di questo weekend, l'uomo che ha risvegliato l'Udinese, 3 vittorie di fila, ha messo fine all'imbattibilità dell'Inter e quindi insomma una persona che ci può raccontare tanto. Magari ci può dire tanto anche della situazione del Milan. Imbarazzante il dato che abbiamo citato prima nel GR, è un dato storico, ovviamente non significa che questo è un campionato che si può chiudere per il Milan con la retrocessione, ma era dal 1981-82, annata chiusa con la retrocessione in Serie B, che il Milan non perdeva 7 partite nelle prime 17 giornate. E oggi a Verona ha perso davvero male. Io la lancio subito, Carlo, ciao, la domanda. Ciao Giovanni. Ho una mia opinione, ve la dico dopo. La domanda è: Gattuso era l'uomo giusto per provare a risollevare la stagione del Milan? La mia risposta è no, e non è un attacco a Gattuso, ma ci sono alcune evidenze che lo dimostrano. 800 24 00 24, se volete prenotarvi per intervenire fino alle 19, oppure 349 238 6666. Aspetto i vostri sms e i vostri WhatsApp. Saluto subito Vittorio Reggia. Ciao Vittorio. Ciao direttore. Buongiorno a tutti. Ciao. Voi. Buongiorno. Allora, fra pochi istanti sentiamo insieme a te le prime battute di Allegri ai microfoni di Mediaset Premium. Sta arrivando. Mi dai la tua cartolina di oggi sulla Juventus? Beh, la Juventus ha fatto quello che doveva fare. Insomma, era un'occasione ghiotta per superare l'Inter. Era anche un'occasione ghiotta per, insomma, rimettere un po' le cose a posto. Perché c'erano state tante chiacchiere nonostante tutto in settimana, insomma questa telenovela di Dybala incomincia a stancare un po' tutti, probabilmente ha stancato anche Dybala e quindi questa era l'occasione migliore per dimostrare che la Juve, come è sempre stata, è al di sopra spesso dei suoi campioni, ancorché straordinari. L'altra cartolina, perdonami, ma è veramente quella del Milan. Io ribalto quello che hai detto tu, forse non era giusto cacciare Montella, ecco. Forse non era colpa di Montella. Io credo che sia onesto dire che questo Milan gioca peggio dell'ultimo Milan di Montella, quello delle ultime 3-4 settimane, ma non bisogna farne una colpa a Gattuso. Il problema è che forse si è dato un ulteriore alibi ai giocatori e quando le stagioni poi perdi di vista anche un obiettivo minimo, rischiano per 6 mesi di essere un calvario. La fortuna del Milan è che la Sampdoria si è piantata un punto nelle ultime 4 partite dopo aver vinto 3-2 contro la Juventus, e quindi diciamo paradossalmente oggi il Milan è più vicino a quel sesto posto che vale l'Europa League di quanto non lo fosse quando l'ha lasciato Montella, 3 punti contro 6, però siamo veramente a delle consolazioni così. Io sono dell'idea invece, non la penso come voi, neanche come il direttore, cioè secondo me era corretto sostituire Montella perché il Milan non aveva un approdo preciso neanche dal punto di vista dell'immagine. Non so se Gattuso possa essere l'uomo giusto per il futuro, per questo momento di così grande casino io credo di sì, e credo anche che l'obiettivo realistico sia quello del sesto posto e dobbiamo tarare il Milan su quell'obiettivo. Gattuso si è trovato in mano una squadra che non aveva preparazione fisica, conosciamo la vicenda del preparatore cacciato e mai sostituito, questo ce l'hanno raccontato. Io poi vi do un paio di numeri, ma abbiamo tempo fino alle 19, non voglio annoiare nemmeno Vittorio Reggia. Detto tutto, ragazzi, il Milan ha fatto un punto in 2 partite contro Benevento e Verona, e il Verona era fino a questa mattina penultimo e il Benevento è ultimo in classifica. io dove ci sia i numeri sono questi, questa scossa io faccio questi. Fatica a trovarla. Abbiamo le prime parole di Massimiliano Allegri, i microfoni di Premium Sport, così le sentiamo insieme a Vittorio Reggia e poi le commentiamo. L'allenatore bianconero che noi intanto salutiamo dovrà ancora attendere qualche istante perché abbiamo un tassativo, una pubblicità tra davvero pochissimo. Allora usciamo perché ci risparmiamo la pubblicità di Mediaset Premium. Vittorio Reggia, ti do io la mia cartolina invece sulla Juventus. Allegri zitto zitto ha chiuso la sesta partita di fila senza prendere gol tra campionato e Champions League. Nelle prime 18 prima di questa serie era successo solo 6 volte. È una cartolina esatta, anche perché io, nonostante ci sia questa tendenza europeista sacchiana, io penso sempre che la regola italiana del primo non prenderle sia alla base di tutti i successi. La difesa della Juventus era diventata fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, una difesa imbarazzante per quello che sono i target, gli obiettivi della società bianconera, è stata rimessa a posto. Guarda, paradossalmente io ti dico, faccio mea culpa, è stata rimessa a posto soprattutto con l'innesto di Benatia. E Benatia per me era un giocatore assolutamente poco affidabile, al di là dal punto di vista fisico, ma uno di quei giocatori alla Tudor che una cavolata durante una partita te la faceva sempre. Devo dire che oggettivamente si sta comportando in maniera eccelsa, da quando è stato inserito Benatia, insomma, la difesa funziona anche con un certo tipo di turnover abbastanza spesso. Sì, in questo momento è tornata ad avere una coppia centrale titolare. Oggi c'erano Benatia e Barzagli, credo sia Benatia e Chiellini. Con buona pace di Rugani, con buona pace di ovviamente. No, Rugani è scomparso dagli schermi radar. Io mi ricordo, avevo fatto qualche tweet all'inizio della stagione dicendo che Rugani non sarebbe stato titolare. Ovviamente mi hanno insultato, perché la gente su Twitter o condivide o ti insulta, però mi pare che poi alla resa dei conti questo ragazzo, che è dotatissimo, tutto quello che vuoi, però insomma ha avuto molte chance per poter diventare titolare e non l'è diventato. Alla fine Allegri, Vittorio, dopo 3 anni sarà il caso di porsi qualche domanda, no? Ma appunto, infatti più che altro di dare qualche risposta. Le risposte non dobbiamo darle noi, deve darle quel signore lì che parla. Allegri, dico, cresci all'ombra di Chiellini, di Barzagli, di Bonucci, uno che non sposta più gli equilibri ma comunque è sempre un signor difensore. Insomma, se tu dopo 3 anni vissuti a contatto con certi giocatori non hai fatto lo scatto, non sei salito di livello, e vuol dire che probabilmente resterai una straordinaria promessa, ma resterai una straordinaria promessa, e la Juve con le promesse non ha niente a che fare. Cioè, nella Juventus ci vogliono i campioni per poter mantenere un certo livello di competitività. E purtroppo, anche perché l'anno prossimo ne arriverà un altro che ha l'etichetta di straordinaria promessa, che è Caldara, che se la merita perché arriva per la prima volta, e tu sei lì da sufficiente tempo per non averla più. Scrive un amico: con 3 centrocampisti la Juve prende meno gol. E certo, ma io ripeto, anche tanto dibattito su come gioca la Juve non serve a niente. Allegri lo ha sempre detto che doveva ripartire dagli equilibri dietro. Per questo dico, faccio notare che da quella giornata di fine novembre a Marassi, dei 3 gol contro la Samp, ha messo in fila 6 partite su 6 senza aver incassato. Aspettiamo ancora Allegri, però posso farti sentire, direttore, così chiudiamo con te sulla questione Dybala, cosa ha detto Marotta prima della partita ai microfoni di Premium? Dybala rappresenta sicuramente un aspetto positivo, però è un momento di difficoltà, usando un po' un paragone, come ha scritto Pirandello, un po' deve trovare quella simbiosi, quella giusta conciliazione tra la persona e il personaggio, trovare la coscienza di se stesso, perché nel momento in cui la mente è solida e libera, io credo che potrà poi ritornare a offrire quelle grandissime prestazioni che si è abituato a vedere negli anni passati. La domanda è questa: cosa non sappiamo del caso Dybala? Perché è il rituale che un club esponga in maniera così chiara la difficoltà a fare anche vita d'atleta di un proprio calciatore? Ma guarda, se tu ci fai caso, questa considerazione di Marotta, anche ha scomodato Pirandello, io lo lascerei in pace Pirandello, ma va bene lo stesso, e viene pochi giorni dopo lo schiaffone che gli ha assestato Nedved, che è un dirigente ma continua a essere tra virgolette un calciatore, cioè un uomo di spogliatoio, è uno di quelli che va sempre al campo quasi 2-3 volte alla settimana, per cui insomma la situazione ce l'ha in mano. Significa che probabilmente questo ragazzo che gli hanno dato la maglia numero 10 ed è pesantissima da portare, bla bla bla bla, e ha iniziato la stagione con le sirene del Barcellona, non ce lo dimentichiamo, aveva iniziato alla grande, quindi Barcellona 100 milioni, 150 milioni, e ha un problema sentimentale, magari ce l'abbiamo avuto tutti, cioè ha rotto con la fiданzata del cuore, bla bla bla bla bla, probabilmente si è concesso qualche distrazione per compensare l'amarezza di essere stato lasciato, di aver lasciato la fidanzata, forse in un momento in cui deve incominciare a sorridere di più e a vivere la sua professione in maniera diversa da un conto essere campione, un conto essere fuori classe. La Juventus lo aveva battezzato fuori classe e in questo momento lui probabilmente patisce e non c'è niente da fare. Poi sai, gli attaccanti vivono situazioni, traiettorie molto particolari, no? Per cui c'era Schillaci che nel 90 tirava da Palermo, sì, e faceva gol a Torino, capisci? Poi però è passata una stagione dove tirava da un metro dalla porta e sbagliava. Gli attaccanti hanno in più anche questo sì, credo però che il discorso su Dybala sia un po' più profondo, non sia la semplice contabilità del gol. Sia proprio una serie di aspettative negli atteggiamenti che la Juventus nell'ultimo periodo ha evidentemente visto deluse per tutto quello che rappresenta Dybala. È una questione di atteggiamenti, perché la crisi ce l'hanno tutti, possono averla tutti, attaccanti e portieri, gli atteggiamenti no, probabilmente Dybala non sta avendo un atteggiamento in allenamento, nello spogliatoio. Quando smette i calzoncini e le scarpette e diventa un cittadino comune, probabilmente non fa le cose che dovrebbe fare o che faceva prima, e tutto questo va a incidere sul suo comportamento. Non ti dimenticare che la Juventus cambiano i presidenti, cambiano i dirigenti, ma è la società che fece tagliare i capelli a Rui Barros quando si presentò in sede per firmare il contratto. Cambiano anche i giocatori, se non si allineano a certi parametri. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Reggia. Allora, abbiamo le parole di Allegri, ma prima andiamo al traffico, poi rientriamo. 800240024. Vi voglio qui sulla crisi del Milan. La domanda è: era Gattuso l'uomo giusto o no? E poi se mi dite anche cosa ne pensate sul resto di questa giornata che comunque ha ridisegnato la vetta del campionato. Tutti convocati. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente, loca! Gamma tipo da 13.750 euro e in più per tutte le famiglie 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria! Io mi sento un po' fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it. Un poco loco. Convocati. Ma ragazzi, sta facendo delle buone prestazioni, sta crescendo fisicamente come compattezza di squadra. Anche oggi hanno fatto 3 gol, abbiamo avuto anche altre occasioni, ma soprattutto non abbiamo concesso. Fino a questo momento i numeri sono stati numeri importanti. Poi dopo il Napoli e l'Inter hanno fatto e stanno facendo i numeri importanti anche loro, quindi per stare dietro a loro non si poteva far di meno. Quindi sono contento di quello che stanno facendo, e poi ora mercoledì abbiamo anche la Coppa Italia che dobbiamo passare perché è un altro obiettivo della stagione. Se parliamo di numeri, è la sesta partita senza subire gol, merito di un modulo che ha trovato nei tre di centrocampo magari un pochino più di copertura, merito di Benatia che è da quando è lui titolare succede questo, o merito di tutta la squadra che è cresciuta? Merito di tutti quelli che giocano, di quelli che stanno in panchina, perché c'è disponibilità, e dopo per non subire gol quando fai la fase difensiva c'è bisogno di tutti, perché altrimenti fai fatica, fai doppia fatica a recuperare la palla, quando ce l'hai sei meno lucido, e su questo direi che abbiamo trovato una bella compattezza. Questo è Allegri, i microfoni di Mediaset Premium, scrive un amico al 349-238-6666, si chiama Lorenzo. Credo che la Juve abbia trovato la soluzione per cui per le altre sarà durissima vincere il campionato, lo è sempre stata durissima per le altre, ma Anche guardando il calendario ha ragione Allegri quando dice che o la Juve lo vince entro l'inizio di aprile, cosa molto complicata, oppure con quella finale di campionato che ha con Napoli, Inter e Roma nelle ultime 5, è quasi fisiologico che questo sia uno scudetto che verrà assegnato quasi in volata. Walter Novellino, ciao Walter. Ciao mister. Ciao. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui fino alle 19. La domanda sul Milan è: era Gattuso l'uomo giusto? Secondo me no, secondo Carlo sì, secondo Novellino no. Devo fare una precisazione. Non credo che sia il problema dell'allenatore. Secondo me il problema sono le scelte delle qualità della squadra, che secondo me ha qualche difficoltà, ha delle difficoltà sempre anche Gattuso. Appena prendono un gol la squadra si disunisce. Io credo che gli allenatori c'entrano ben poco. Sono le scelte, secondo me, dei giocatori che forse non hanno quella qualità che qualcuno pensava, perché secondo me Montella è un ottimo tecnico, Gattuso è anche lui. Io credo che le difficoltà maggiori del Milan sono queste, secondo il mio punto di vista è stato fatto forse un mercato che si... non dimentichiamo che hanno speso tantissimo, mi sembra. E però Walter, anche con un mercato sbagliato o in parte sbagliato, possiamo dire che il Milan non può fare un punto contro le ultime due della classifica, tra l'altro in una Serie A come quest'anno. Ma c'è un po' di confusione. Un punto col Benevento, zero con il Verona. Sì, stiamo arrivando. È chiaro che ci sono delle scelte sopra e ci sono altre scelte di confusione. Confusione anche dettate anche dal non, secondo me, secondo il mio punto di vista, posso sbagliarmi, di un momento di non tranquillità o di qualità di giocatori che secondo me... il Milan è il Milan. È chiaro che oggi l'ho visto il Milan. E onestamente era partito benissimo, ha preso il gol, si è disunito un attimino, voleva rifare tutti in avanti, insomma c'è qualcosa da correggere. Sì, ma Walter, però siamo realisti, il Milan a che cosa può puntare a quest'ora della stagione? Al sesto posto? Non ci sono altri obiettivi proponibili o praticabili, quindi se l'obiettivo è quello si tratta di arrivare lì e salvare la faccia. Secondo me Gattuso per questo lavoro può essere corretto, poi il futuro non lo sappiamo, non lo conoscono probabilmente neanche là al Milan. Rino secondo me lo può fare benissimo, ci vuole un attimo, no? È chiaro che alcuni giocatori non stanno rispondendo a quello che si puntava, perché Bonucci chi non avrebbe detto che è un giocatore, un leader in fase difensiva, eppure sta avendo delle difficoltà, lo stesso alcuni giocatori, quelli ultimi arrivati hanno delle difficoltà a giocare in questo contesto. Milano non è facile giocare, Milano ci vuole una grande personalità, grande chiarezza dentro ognuno dei propri di ogni giocatore, e diventa difficile giocare a Milano se non hai una grandissima personalità, secondo me. Sì, a me quello che sorprende è che Gattuso è stato chiamato e due cose fondamentalmente si potevano chiedere a Gattuso, che non ha un'esperienza lunghissima ma che ha delle caratteristiche. Il primo, che sistemasse la fase difensiva, perché lui era conosciuto per essere quello che allenava squadre che prendevano pochi gol, magari ne segnavano anche pochi, ma pochi ne prendevano. E il secondo, il famoso scatto di carattere. Mi pare che oggi, con la missione di dire alla prima difficoltà noi non sappiamo più reagire, Gattuso ci abbia raccontato che questo scatto di carattere lui non è riuscito a portarlo. E il Milan, questo Milan sta prendendo più gol anche dell'ultimo di Montella. Cioè, la domanda è, secondo me non si può fare ogni volta l'analisi sulla stagione, perché gli errori sarà il momento. Ma questo Milan, nelle prime 5 partite di Gattuso, Europa League e Coppa Italia compresa, gioca meglio o peggio delle ultime 5 partite del Milan di Montella? Posso aggiungere, Gattuso, cosa ha ereditato dalla gestione Montella? Perché a me risulta che si è trovato per le mani una squadra che non ne aveva più fisicamente, vicende di preparatori. Dopo io però vi do qualche numero, perché anche questa cosa della preparazione è un punto, insomma. Io dico che Gattuso sta, come hai detto tu, Gattuso si sta ambientando anche lui. Non è facile allenare una squadra che aveva che ha un passato, che eccetera eccetera, viene dalla primavera, è chiaro che il suo carattere, il suo carisma, la sua voglia, lui cerca in tutte le maniere di trasmettere, ha difficoltà in questo momento e si vede che la squadra non recepisce e lui non riesce a trasmettere, ma io sono convinto che è una questione soltanto al di là dell'allenatore. Io sono del parere che è il giocatore che deve dare anche qualcosa in più, perché noi leggiamo tutta la settimana che andiamo a Verona, facciamo questo, facciamo quell'altro. Io sono un allenatore, io ho il dovere di difendere i miei colleghi. I miei colleghi hanno personalità, hanno carattere. Montella ha esperienza, Cattuso forse non ha l'esperienza di Montella, ma ha l'esperienza calcistica che è fondamentale. Ha una grande credibilità da spendere per tutto quello che è stato. Posso farti la domanda diretta allora? Cioè, tu con gli occhi d'allenatore, quando oggi vedi il Milan, scrive un amico, ma ha giocato male il Milan o bene il Verona, ma tutte e due le cose, nell'atteggiamento dei giocatori, che cosa vedi? Gente che ha, almeno per il campionato, staccato la spina o no? No, io ho visto oggi un Milan che era partito benissimo, e ti dico la verità, ti favo per Gattuso, con tutto il bene che voglio a Filippo Fusco, che è stato il mio direttore sportivo al Verona, a Napoli, eccetera, eccetera. Però ti favo per Gattuso. Però dopo un po' ho visto delle difficoltà, che si era chiuso molto bene il Verona e loro non riuscivano a saltare un uomo. Solo Suso era il giocatore che riusciva a saltare l'uomo, che forse aveva la testa libera. E nella fase difensiva devo dire che onestamente sono stati degli errori che giocatori con una certa esperienza come Romagnoli, come Bonucci e come altri che possono giocare, oggi ho visto questi due che potevano evitare certi gol, insomma, hanno difficoltà, forse qualcuno si aspettava molto di più, io mi aspettavo, i tifosi o qualcosa di più, cioè, mi aspettavo oggi da qualcuno che ha esperienza nel giocare, perché oggi era una partita da saperla giocare e purtroppo non ci sono riusciti. E Gattuso, tutta la sua esperienza, tutto il suo, è chiaro che non ancora ha difficoltà a fargli capire quello che vuole. Grazie Walter. Grazie a voi. Ciao mister. Grazie Walter Novellino. Ma noi restiamo sul Milan. Vi ho promesso dei dati sulla questione della preparazione atletica, lo facciamo dopo le 17:30 quando ci raggiunge Pierluigi Pardo e ci raggiunge anche Arianna Ravelli del Corriere della Sera. 800 24 00 24, facciamo Alessandro da Sesto. Alessandro, buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie, dai. Allora, un paio di settimane fa, anzi forse un po' di più, 3 settimane fa, prima della partita di Barcellona, le vedove di Conte erano molto scettiche sul mercato della società e, come al solito, Allegri col tempo sta dando le risposte che meritano questi scettici. E poi vado un po' controcorrente, secondo me nel momento in cui Allegri, come avevo già detto in un altro intervento, si è messo a giocare a 3.5 e praticamente ha riportato la Juve in un mezzo bunker, perché fanno anche fatica a tirare in porta, io penso che ci mancherà poco e il campionato forse non sarà più combattuto come non lo so. Tutti credono. Io non questo credo. Non lo so, Alessandro. A parte che rivendico il copyright sull'espressione vedove di Conte. Credo però che la mossa tattica sia stata una mossa decisiva. Credo anche che aver tolto un uomo dall'attacco per spostarlo a centrocampo però in parte abbia sconfessato il mercato estivo. Si possono dire le due cose insieme, ma tu se sul mercato spendi 80-90 milioni per due esterni come Douglas Costa e Bernardeschi, hai già Dybala, hai Mandzukic e adesso ti trovi a giocare davanti con tre uomini di cui magari quando sta bene uno è Quadrado, evidentemente c'è stato un cambio in corsa. Il che è da applausi per Allegri, se riesce a trovare la quadra di tutto, ma magari fa aprire una riflessione più profonda su tutta la gestione di questa prima parte della stagione della Juventus. 800 24 00 24, arriva Pierluigi Pardo, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Mamma, tieni tu Luca. Tranquilli, con Angel Care Video di Poppa Pedretti vedo il bimbo, gli parlo e lo ascolto senza spostarmi dal divano. Sei grande. Grande Angel Care Video. Per saperne di più visita il sito www.poppapedretti.it. Eccone un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienza e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Nei supermercati Ali e centri Aliper abbiamo ribassato il prezzo di tanti prodotti della vostra spesa quotidiana. Supermercati Ali e centri Aliper. Ogni giorno la genuinità, i sapori migliori, la cortesia e la convenienza di sempre. Prezzi ribassati. Non è una promozione, è una promessa. Anche a Natale. Ali e Aliper. Qualità al prezzo migliore. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. TAN 3,95, tasso leasing 4,03, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre. Per una volta Chuck concede un lieto fine. Sistema Combibox attivato. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema Combibox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli Combibox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni, e goditi la tua tranquillità sempre. Combibox ti protegge ovunque tu sia. Combibox, enjoy life safely. Combivox.it. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Noi di Mercedes-Benz vorremmo augurarti un 2018 in cui raggiungere obiettivi più alti nella vita ed emissioni più basse in strada, dove superare i tuoi limiti riducendo i consumi. Ma perché aspettare? Fino al 31 dicembre hai 4.000 euro di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutti i modelli se permuti un'auto diesel da Euro 1 a Euro 4. Quest'anno ha ancora molto da offrirti. Scoprilo su mercedesbenz.it. Progettare il futuro delle smart cities richiede soluzioni innovative in chiave di sostenibilità, mobilità, sicurezza e comfort. ABB, protagonista nelle tecnologie per l'energia e l'automazione, porta nelle nostre città il valore della digitalizzazione, grazie a prodotti smart e servizi avanzati progettati per garantire l'efficienza di energie rinnovabili, edifici intelligenti e mobilità elettrica. ABB, una competenza solida e dinamica al servizio del futuro delle nostre città. ABB, let's write the future together. Convocati. Ma se non c'erano problemi non mi veniva data questa possibilità, e questo è un dato di fatto. Non basta solo il carattere, dopo io non sono un santo padre Pio che fa i miracoli, io sono un allenatore che in questo momento la cosa che mi preoccupa di più è l'aspetto mentale, perché abbiamo perso 3-0, va bene, ma davamo la sensazione di per 25 minuti, 30 minuti potevamo fare gol in un momento all'altro, tenevamo bene il campo. Questo Gattuso che ha detto di non essere padre Pio. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pierino. Ciao ragazzi. Stiamo dibattendo se sia o no l'uomo giusto, se fosse o no l'uomo giusto per rimettere a galla il Milan. Beh, insomma, fare questo discorso oggi diciamo non è esattamente... Hai mandato tu questo messaggio che è arrivato. Allora, chiedere se Gattuso sia l'uomo giusto dopo Benevento e Verona è come chiedere se Badoglio lo fosse dopo Caporetto. Appunto. Mi piace vincere facile. Un po' ingeneroso, mio caro Pardo, un po' ingeneroso. Però l'analisi va fatta. Detto questo, l'analisi va fatta, non c'è dubbio. E oggi io ho visto in pratica la partita a tratti, quindi non ho... Però insomma ho visto una squadra impressionante in certi momenti, proprio per la fragilità mentale. È vero, ci sono stati dei momenti in cui il Milan dava la sensazione di poter addirittura dilagare in certi momenti l'occasione della Mute. Scusa, secondo te però... mentale o fisica? Perché il Milan, a me, tu hai parlato dei primi 30 minuti, va bene, a me il Milan dà l'idea di una squadra estremamente fragile, principalmente dal punto di vista fisico, poi arriva da lì, arriva tutto il resto. Guarda, a me al Milan manca la brillantezza, più che un discorso di tenuta, se faccio analisi su tutto il campionato, manca la brillantezza, manca l'allungo, manca la capacità di diventare del forcing più che diciamo la tenuta nei 90 minuti, che secondo me invece è una squadra che ha, insomma, anche col Bologna banalmente la vittoria è arrivata con un gol a un quarto d'ora alla fine, quindi non è questo secondo me, è che per me è più l'elemento, tecnico e l'elemento psicologico, insomma, più che quello fisico. Che ripeto, è un aggravante. Saluto Arianna Ravelli, ciao Arianna. Ciao a tutti, buonasera. Inviata del Corriere della Sera. Allora, i dati che vi ho promesso prima, perché questa storia della condizione atletica spesso è anche un grande alibi per chi prende una squadra in corsa. Allora, io lo so che non è il dato più interessante, anche se la tendenza, pure diciamo sul movimento sprint, è simile. Il Milan dall'inizio dell'anno ha corso solo 4 volte a fine partita più dell'avversaria, su 17 giornate. Sapete quando? Le prime 4 giornate. Quando c'era Marra, che poi è stato indicato da tutti come il nemico pubblico numero uno, licenziato il 24 settembre, quando la preparazione contava, da lì in poi non c'è mai stato il cambio di passo, né senza Marra né cambiando l'allenatore. Io non lo so se sia una questione di condizione fisica. Arianna, tu che pensiero fai? Credo che quello sia un elemento. Poi dire in percentuale quanto questo sia decisivo nella stagione disastrosa del Milan è difficile. Di sicuro non si è creata una buona base dal punto di vista atletico e di condizione. Non credo che mentano tutti, non credo che menta il Gattuso. È vero che la condizione atletica spesso è un alibi verso dietro il quale si nascondono, ma in questo caso un po' meno rispetto al solito, Arianna, perché non dimentichiamo la vicenda del preparatore atletico del Milan quando c'era ancora Montella. Infatti ci arrivavo proprio, intendevo proprio quello. Dico, è vero che questo è spesso un alibi dietro il quale si nascondono magari mancanze della rosa o della costruzione della stessa, però è anche vero che qua, insomma, ci sono tanti dati che non mentono. Allontanare un preparatore, come stavi giustamente dicendo tu, ricordando tu, a settembre, non è una cosa che capita molto spesso. E quindi lì è stato un po' sicuramente l'ammissione di un problema, ma insomma anche la deflagrazione di una situazione che è andata poi peggiorando, nel senso che poi si è rimasti un mese senza preparatore. E questo ma voglio dire, poi queste poi alla fine sono le ragioni per cui ha pagato Montella, insomma, non tiriamoci tanto attorno. Sì, che alla fine gli sono costati il posto. Queste sono le ragioni per cui poi ha perso il posto. Dopodiché il problema è che appunto ci vorrà tempo, che cosa che il Milan non ha, però non è che i difetti di prima sono rimasti tutti inalterati, in preparazione compresa. Sì, perché non credo che si stia vedendo un cambio o qualcosa. Questa è la sensazione. Io non so, tu che vivi il Milan quasi tutti i giorni, poi magari ci sono le cose che non si vedono in campo, non si vedono subito. Cioè, c'è qualcosa che sta cambiando. Noi gli allenamenti non li vediamo. Posso, perché non se li fanno vedere. Quello che posso dire è che tutti raccontano che naturalmente sono cambiati i metodi e che gli allenamenti sono cambiati tantissimo all'insegna di una maggiore intensità. Per ora dobbiamo crederci e dobbiamo anche però pensare che fare un carico di preparazione, cioè fare adesso quello che fare a Natale, in sostanza quello che si fanno le altre squadre fanno meglio, forse crea ulteriori problemi, non lo so. Ho capito, ma se questi non stanno in piedi, che devi fare, Arianna? Cioè, io non lo so, quello che dicono è questo: i giocatori sono fisicamente non stanno bene. Però se ci metti un mese e mezzo e nel frattempo per andare in condizione, che è quello che poi aveva detto Gattuso che era il tempo che ci voleva, e in questo mese e mezzo le perdi tutte, non abbiamo risolto il problema. Quindi dopodiché secondo me i problemi del Milan non sono solo questi, e non basta la grinta, non bastano le cose anche per soldi. Sì, mi piacerebbe anche chiedere a Luigi Pardo e poi ad Arianna Ravelli se questa grinta l'hanno vista, perché poi oggi dice un'altra cosa, no? Pier è caduto. Adesso no, che è caduto? No, ci sei, perdonami Arianna, che è caduta. Mi facevano segno dalla regia Roberta Fresani e Claudia Schiattone. Voglio chiederti, oggi a un certo punto dice Gattuso, dopo le difficoltà non ci siamo più, cadiamo, non riusciamo più a rialzarci, sembra che ognuno vada per conto suo, giocatori che vanno ciascuno, che secondo me è una missione incredibile, è un'autocritica. No, però possibile, guardare da questo punto di vista che Gattuso è uomo, è molto trasparente, secondo me, che non sì. Ti tira indietro, trasparente, cioè non sta minimamente, a me sta piacendo, al di là insomma della simpatia personale, mi sembra che stia affrontando questa esperienza appunto senza, con grande trasparenza, con grande consapevolezza dei rischi, delle situazioni, e insomma qui non è che adesso c'è un problema, il Milan ce l'ha da anni, diciamo le cose come stanno, il problema è il Milan ce l'ha da anni, e quest'anno una campagna acquisti che sembrava sontuosa in realtà non lo è stata, e questo è oggettivo ormai lo possiamo dire, e la situazione è se possibile ulteriormente peggiorata rispetto agli anni scorsi, questo è il punto di partenza di tutta l'analisi. La bacchetta magica Gattuso non ce l'ha, sicuramente non ce l'ha, e oggi per me ha ragione, cioè l'elemento è quello lì, insomma, ed è sicuramente una missione di colpa, nel senso che o di impotenza se preferisci, è un momento nel quale la squadra alla prima difficoltà si inabissa, cioè la partita di oggi è stata questa roba qui, nel senso che ci sono stati dei momenti in cui il Milan dava la sensazione di poter anche passare, di poter anche trovare il gol, ma dopo l'1-0 non c'è stata reazione, e insomma ragazzi c'è poco da dire. E poi abbiamo visto come è andata avanti, cioè 3-0 a Verona, con tutto il rispetto per il Verona che tra l'altro sta crescendo, però è un risultato inaccettabile, diciamo, inaccettabile. Inaccettabile credo sia il termine usato. È tornata Arianna Ravelli da Fassone dopo quel famoso Sampdoria-Milan 2-0, da lì in poi le cose sono andate se possibile anche peggio. Lo so che è difficile, ma in un minuto, prima del traffico e prima di salutarla, vorrei chiedere ad Arianna Ravelli se, fatto fuori il preparatore atletico, fatto fuori l'allenatore, e dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane qualche riflessione su Mirabelli, che mi sembra essere quello finito nell'occhio del ciclone. Ma le riflessioni forse sono anche già partite, dopodiché non credo che succeda nulla. Poi le valutazioni sulla costruzione della rosa si possono fare, lui stesso ha detto oggi aspettiamo ancora un po', perché lui pensa che la rosa bene, no? L'avete detto anche voi, e quello che pensa in questo momento è quello che pensa la società, perché credo che la società in questo momento stia valutando che la rosa non ha potuto esprimersi, magari qualche acquisto è stato anche sbagliato, però la rosa sicuramente non si è espressa al meglio, o non ha espresso tutte le sue potenzialità proprio per i problemi di cui parlavate. Certo. Grazie Arianna. A voi. Grazie ad Arianna Ravelli, Corriere della Sera. Traffico 800 24 00 24, rientro, parliamo del Real Madrid, poi dopo le 18 c'è Massimo Oddo, c'è tutto il ragionamento sull'Inter e parliamo anche delle romane. Tutti convocati. Convocati. Cristiano Ronaldo con la pierna derecha, golpea Cristiano. Gol. Cristiano Ronaldo. No hay un jugador en el mundo que haya marcado más goles en un mundial de clubes. De este estadio se acabó, el Madrid campeón del Mundial de Clubes, después de derrotar con un gol, cómo no, de Cristiano Ronaldo a Gremio de Porto Alegre, el Madrid vuelve a mirar el fútbol mundial desde el puesto más alto. ¿Qué te voy a decir? Yo los números no hablan por sí mismos, no tengo que... Yo doy siempre las respuestas dentro del campo, así que yo estoy muy feliz. Ayudé al equipo a ganar un trofeo, el equipo ha estado fenomenal y un trofeo más para el currículum. Ci prendiamo 5 minuti per parlare del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo, carissimo per Luigi Pardo. Dimentichiamo le piccolezze del nostro campionato. C'è Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Annuncio che dopo le 18 avremo Massimo Oddo, l'eroe di ieri con la sua Udinese che ha sbancato San Siro. Parleremo della questione Inter, quindi vi aspettiamo perché siamo qui fino alle 19. Carissimo Filippo, da dove partiamo? Dagli 8 trofei di Zidane in 23 mesi, dai 53 gol stagionali di Ronaldo e da tutto quello anche che abbiamo sentito, che era abbastanza facilmente traducibile. Sì, sì, sì, hai visto, cioè, cosa vi devo dire, no? Comincia così. No, io gli 8 trofei di Zidane li aggiungerei un numero, che ha partecipato a 9 tornei e mezzo. No, perché lui praticamente ha perso una Coppa del Rey, che è stato eliminato dal Celta questa primavera, e poi la prima Liga, dove però lui è subentrato a Benitez a gennaio. Quindi insomma sono... Possiamo aggiungere la seconda, perché possiamo sì, anche aggiungere la seconda, che visto che poi parleremo del classico. Più, ragazzi, che gli vuoi chiedere di più, mentre noto che Filippo porti i postumi nell'abbacchio di venerdì, visto che... ieri sera, a Roma che voi non avete idea. Ma sì, a chi la racconta? Va in giro nudo. Fiume Tevere. Ricci, va in giro nudo insieme a Pardo e poi ti becchi gli accidenti. Lasciamo stare, non voglio indagare, lasciamo stare. Copertissimi eravamo. Io, ma se racconta qualcun altro, Roma, ho abbastanza anni Madrid, per clima secco, basta, mi tornerà anche la voce. Smettila, ok, se no spiattello tutto. Vabbè, comunque, io starei su Zidane, attenzione a lui, attenzione al Real Madrid quando sarà primavera, perché io non li voglio mai. Secondo, Cristiano Ronaldo è un caso clamoroso di un giocatore che ormai ha deciso che gioca solo le partite che gli interessano. Sì, è un cannibale e mangia quando vuole lui. E, diciamo, questo è il concetto. Infatti in Liga ovviamente stanno andando malino, però attenzione perché sabato prossimo c'è il classico. Se lo vincono vanno a 5 punti dal Barça. Per cui vediamo come va a finire, vediamo cosa fa il Barcellona stasera col Deportivo. Il Real Madrid è una squadra che non si può mai dare per morta, no? E questo è il concetto. Ieri hanno giocato di nuovo con la stessa formazione che ha battuto la Juventus, la stessa formazione che ha pareggiato a Bilbao, quant'era, 10 giorni fa, e adesso ha vinto il Mundialito. Sinceramente questo Mondiale per club è una competizione che lascia un po' il tempo che trova. Certo. No, perché questo dobbiamo dirlo. Potrebbero tornare a fare una sana finale tra l'europea e la sudamericana, dai. Sì, però è stato meglio, cioè è stata molto più, diciamo, divertente e combattuta la partita con la Jazeera, no? Ieri non c'è stata partita, cioè a me dispiace sto povero Renato, hanno fatto neanche un tiro in porta, insomma, quindi vabbè, questo è un peccato. Resta per me la grandissima diciamo prestazione di Zidane in questi mesi, in questi 2 anni scarsi. Non è semplice, qua devi stare sempre al top, sempre in alto, perché lo stavano criticando solo 2 settimane fa, 10 giorni fa. È molto complicato, non è semplice, lui ci sta riuscendo. Adesso vediamo come va a finire in Liga e soprattutto, come dice Carlo, vediamo in primavera che succede. Sì, quando tornerà a contare. Se l'hai visto, si è girato quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita, si è girato, ha fatto un mezzo sorrisetto. Ci sta tutto, sì, Zidane, vabbè, in quel linguaggio del corpo. Voglio dire, Ancelotti aveva vinto 4 tornei in un anno, Zidane è arrivato a 5, è il record, anno solare parliamo. E voglio dire, adesso ci sarà la sfida col Paris Saint-Germain, che è la guerra dei mondi, quindi di solito erano fortunati nel sorteggio, quest'anno meno, e lì si deciderà un po', no? Diciamo tutta la stagione. Sì, tutta la stagione. Pier, non so se tu condividi il fatto di mettere Zidane come uomo copertina di ieri, di questo momento. Ma ragazzi, Zidane, non dimentichiamoci il punto di partenza. Zidane ha preso una squadra che sembrava in difficoltà, con un allenatore come Benitez che non si era fatto amare dei suoi giocatori, e ha fatto delle cose incredibili. Cioè io credo che l'onestà intellettuale ci porti inevitabilmente a dover parlare di quello di straordinario che ha fatto questo allenatore. Poi sicuramente dal punto di vista della dottrina calcistica, della filosofia calcistica, è ancora molto giovane, non è quindi nel gruppo dei grandi, perché ancora, insomma, diciamo, non c'è una scuola di pensiero, non c'è una filosofia, non ci sono dei cambiamenti come quelli che ha portato Sacchi, come quelli che ha portato Guardiola.

50 anni di storia e passione che hanno dato vita a un prodotto unico ed eccezionale. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vai su franciacorta.net e scopri Franciacorta, una storia di passione. Stress da lavoro? Ricaricati tra le Dolomiti. Nella schiare a San Martino di Castrozza Passorolle ti aspettano piste perfette e panorami mozzafiato per un break all'insegna di sci, divertimento e benessere. Segui le webcam su sanmartino.com. Le avventure sulla neve sono già iniziate. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Una pecorella, due peco. Melatonina e valeriana ACT è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. La digitalizzazione sta guidando il futuro dell'energia, segnato da una profonda evoluzione delle tecnologie e dei modelli di business. ABB, da sempre protagonista nel mondo dell'energia, offre prodotti, soluzioni digitali e servizi avanzati di gestione integrata in tempo reale per una rete elettrica più forte, intelligente e sostenibile. ABB, una competenza senza confronti, al servizio del futuro dell'energia. ABB, let's write the future together. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca. 500L è tua a €15.500, oltre oneri finanziari con finanziamento meno 1.000 anziché €16.500. E in più, per tutte le famiglie, €1.000 di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. TAN 595, TAE GOT 01, salvo approvazione FCA Bank. Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it. Di quello che può essere il mercato, facciamo prima parlare la società. Sì, Ausilio è un direttore sportivo, la società è la proprietà. Ausilio penso che non sappia le possibilità di investimento che abbiamo, poi in base a quelle che sono le possibilità si va a parlare di calciatori, se no si fa come a giugno, dove mi sono sentito attraversare poi le orecchie da 2000 nomi e non si sono potuti prendere. Questo Spalletti ieri pomeriggio, dopo aver visto l'Inter perdere in casa la prima contro l'Udinese e perdere il primo posto e scivolare virtualmente al quarto, perché virtualmente oggi l'Inter è quarta in classifica. Pierluigi Pardo è qui con noi, ciao Pier. Ciao. Di nuovo c'è Carlo Genta, c'è Massimo Paganin, ciao Massimo. Ciao, scrive un amico: non era meglio se Spalletti non avesse sfiduciato pubblicamente i ragazzi chiedendo rinforzi alla proprietà? Dai, partiamo dal tema mercato, perché al di là dell'analisi del perché l'Inter abbia perso ieri, quello che conta è che da qualche giorno Spalletti ha aperto la campagna di gennaio e lo ha fatto lanciando dei messaggi in codice, ma neanche tanto in codice, abbastanza chiari, no Massimo? Sì, beh, io credo che sia, sia importante per l'Inter allungare la rosa e dare profondità alla rosa con gli elementi di qualità. Era già da giugno che Spalletti aveva chiesto dei giocatori, quindi credo sia legittimo, no? Si guarda già al futuro, si guarda la possibilità di arrivare alla fine dell'anno in una posizione di classifica che consente il prossimo anno di giocare la Champions League. Di conseguenza c'è la necessità di prendere dei giocatori o di creare una rosa su una certa profondità, perché deve aumentare quella che è la competitività della squadra, e quindi i giocatori importanti fanno sì che questo livello sia alto. Sì, ma voi avete l'impressione, siccome siamo al 17 dicembre, come i grandi pranzi non è che si prepara tutto in 5 minuti, anche le sessioni di mercato non si preparano in 2 settimane. Cioè, io ho l'impressione che se Spalletti esce in questa maniera a 2 settimane all'inizio del mercato è perché siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Inter ha bisogno di più profondità di rosa, no Pier? E però evidentemente lui ha capito che i discorsi in questo momento sono altri. Beh, lui innanzitutto secondo me è rimasto scottato dall'estate, e l'ha detto con chiarezza anche quello che abbiamo sentito qualche istante fa, secondo me è abbastanza preciso. Cioè lui ha sentito 2000 nomi, poi questi nomi non sono arrivati. Questo è il punto di partenza. Poi il secondo elemento è legato alla bontà del lavoro di Spalletti. Cioè, mettiamoci anche dal punto di vista proprio umano, Spalletti sta facendo un lavoro pazzesco. C'è una componente, diciamo, di natura opportunistica, nel senso che la stagione dell'Inter è tale che ti fa venire voglia di investire, perché c'è la possibilità di realizzare, come diceva giustamente Paganin, dei risultati importanti in questa stagione. E poi c'è una componente sul fatto che questi acquisti se li sta meritando Spalletti, cioè, sì, però io credo che Ausilio, che fa il direttore sportivo, lo sappia, cioè se sì, c'è il budget o no. L'uscita con Ausilio mi è sembrata strana. Insomma, di cosa stiamo parlando? Guarda, a me sembra un discorso quasi filosofico, Pier e Massimo Paganin, nel senso che Spalletti lì che chiede rinforzi quest'estate, gliene hanno dati alcuni, altri no. Avete sentito quello che ha detto? Un sacco di nomi mi hanno attraversato le orecchie, poi nessuno è arrivato, si vede che non si poteva. Ecco, vediamo come arriva l'Inter alla pausa della Befana. Dovesse perdere altri colpi, io credo ci sarebbe un confronto all'interno delle mura chiuse della società. Poi non so se usciranno i contenuti, però io credo che insomma Spalletti farà o farebbe la voce grossa. Poi hai ragione tu, Pardo, quando dici che se li è meritati comunque rinforzi. Sì, ma tu hai l'impressione, Massimo, che il discorso che apre Spalletti in questi giorni sia anche una sorta di avvertimento, cioè più di così noi abbiamo fatto ed è più facile scendere come rendimento che andare avanti così? No, beh, questo può essere un alibi, una scusa, non credo che lui si stia dando degli alibi o delle scuse. Lui sta ovviamente, secondo me, questa è la mia opinione, valutando la possibilità di rinforzare la squadra, indipendentemente dal fatto che possano, che qualsiasi risultato avvenga nelle prossime due gare. Se vince l'Inter cambia poco, la squadra va rinforzata e vanno presi dei giocatori proprio in funzione del fatto che verrebbero inseriti in un contesto che già funziona e che sta andando bene e che quindi avrebbe la possibilità come rosa, come squadra, come club, di giocarsi le più chance possibili di arrivare alla fine dell'anno e di vincere anche lo scudetto. Io credo che questo debba essere l'obiettivo al di là di tutto. L'Inter comunque ha chiuso un gap importante, perché 30 punti a maggio, adesso è lì a lottare, è arrivato con 30 punti di vantaggio a maggio, alla fine del campionato, adesso sta lottando con le prime. Non è cambiato nulla dalla sconfitta con l'Udinese, non è stata stravolta una squadra, ha cambiato, perché è un periodo lunghissimo nel quale le cose vanno male. Ha perso una partita, è ancora lì a due punti dalla prima, quindi nelle prossime due gare diventerà importante, perché bisognerà vedere quello che è la reazione di una squadra che per la prima volta ha perso una partita nell'arco di stagione, quindi si deve affrontare in quel modo. Poi per ciò che riguarda il mercato, la costruzione della rosa, dell'impianto dell'Inter per i prossimi anni, io credo che Spalletti parli con la proprietà, ha dato dei segnali, il motivo per il quale lui possa averlo esternato, ma credo che le cose vengono fatte sempre a ragion veduta, con quell'equilibrio che l'ha contraddistinto, perché nell'ultimo anno e mezzo anche a Roma ha avuto sempre un equilibrio importante nel gestire le situazioni. Qui sta facendo la stessa cosa. Sì, ma secondo te lui che cosa vuole? Cioè, avendo solo un colpo a disposizione, io non credo che più di tanto Suning metterà a disposizione dell'Inter a gennaio, ma anche per questioni oggettive di rispetto dei parametri del fair play finanziario e di tutto quello che conosciamo. Cioè, che cosa serve? Perché lui ieri a un certo punto dice: noi nel secondo tempo non abbiamo avuto, ma lo sappiamo che è così, l'uomo che salta due o tre avversari e ci aiuta anche centralmente quando gli manca altri si chiudono. Cioè, cos'è? Deve prendere quello lì, il trequartista. Manca l'uomo, esatto, manca l'uomo con quelle caratteristiche. Lui nelle squadre che aveva a Roma ha avuto Nainggolan, insomma, che è cresciuto molto nell'arco del tempo, che ha avuto la caratteristica di dare degli strappi, diciamo così, alla partita, nei quali le linee avversarie vengono superate, di conseguenza ti porta alla superiorità numerica. L'Inter non ce l'ha in questo momento, non ha giocatori con quel tipo di caratteristiche, quindi immagino che voglia un giocatore con quel tipo di caratteristica. Oltremodo, a mio modo di vedere, manca anche una punta centrale comunque all'Inter, eventualmente in sostituzione di Darby. Sì, e poi siamo sempre col difensore centrale, gli interventi sono, esatto, gli interventi comunque non è un giocatore solo, cioè non è che dici prendo un giocatore risolto. La profondità della rosa viene data proprio dal fatto perché ogni reparto deve essere rinforzato. Credo che sia questa l'idea. Pier, non facile prendere un 10 a gennaio. No, non facile per niente. Più facile, secondo me, sistemare le altre cose. Le altre cose, e quindi, secondo me, prendere un centrale di difesa, che secondo me rimane comunque la priorità, perché insomma Ranocchi ha fatto bene contro il Chievo quando è stato chiamato in causa, ma è ovvio che lì è un po' corta la rosa, dai. Lì è un po' corta, e anzi ha fatto un miracolo, ha fatto un grande lavoro Spalletti con Skriniar, che veramente dà grandi garanzie, con Miranda, insomma, cioè, ribadisco che ha messo veramente tanto del suo Spalletti, e secondo me però un difensore centrale in più serve assolutamente. È interessante il discorso di una seconda prima punta, ovviamente di emergenza in caso di assenza di Cardi, che è un giocatore comunque importantissimo di questa squadra, e poi il 10 mi sembra il corso più complicato di tutti, sì. Dai. Allora fammi salutare Massimo Paganin, grazie Massimo. Grazie a voi, ciao Pier. Intanto vi dico che l'Inter ha 8 giocatori che hanno fatto in campo più dell'85% dei minuti totali possibili. 8 giocatori che hanno fatto almeno l'85%, ce ne sono 3, Handanovic, Perisic e Skriniar, che hanno fatto il 100%. Velocissimo Luciano da Pavia, che ci aspetta da una vita e mezza. Vai Luciano. Ciao a tutti, buonasera. Volevo dire una cosa, io sono milanista da una vita, ma volevo sottolineare due cose. Una, che i soldi non sono tutto, nel senso che non bastano, ma soprattutto che al Milan c'è una confusione da parecchi anni, fatemela dire velocissimo. Torres quando avevamo comprato, poi in panchina, Huntelaar centravanti forte, all'ala fare i cross, allenatori senza esperienza, Leonardo, Seedorf, Inzaghi, Brocchi, quindi purtroppo c'è molta confusione. Gattuso è una persona onestissima, bravo, un bravo uomo, un grande milanista, ma c'è una confusione al Milan. André Silva comprato titolare al Portogallo, sempre in panchina, ma non si capisce. Sì. Ramis all'epoca a stopper quando è un terzino. Secondo me c'è qualcosa di strano. Cosa c'è? Una macumba, una maledizione? C'è che è la condanna e la maledizione per tutte le società che attraversano questi periodi medio-lunghi, travagliati, complicati, non solo dal punto di vista calcistico. Oggi Gattuso ha detto che la squadra non risente di quello che gli succede intorno. È stato onesto, perché sarebbe stato un alibi facile, però c'è anche quella cosa. Allora ci fermiamo, c'è il traffico, poi arriva Massimo Oddo. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Ancora sinistro dentro, Kevin Lasagna ha portato in vantaggio l'Udinese, ancora lui all'Inter. Calcio di rigore per l'Udinese. E ci sta, punito il fallo di mano di Santon. Rodrigo De Paul porta avanti l'Udinese a San Siro. No, abbiamo cambiato, mi sembra, la mentalità, no? E secondo me stiamo andando di squadra. Primo tempo bello, no? Che due squadre che volevano giocare, attaccare. Secondo tempo il mister ha detto due o tre parole giuste dove dovevamo attaccare e l'abbiamo fatto molto bene. Lì è stata la vittoria, no? È 3-1 Udinese, ripartenza perfetta della squadra di Oddo. Mi dispiace sicuramente, come un po' tutte le sconfitte, forse perché è passato un po' di tempo, non ci eravamo più abituati, allora duole un po' di più. Ce la siamo un po' andata a cercare, perché nel secondo tempo non siamo stati più capaci di gestire la palla, abbiamo fatto degli errori sembrando anche timidi nelle scelte da prendere. Loro sono stati in campo bene, hanno fatto valere la loro fisicità, però oggi non ci è girata tanto bene, insomma. Allora, abbiamo sentito il riassunto di ieri, saluto Massimo Oddo, ciao Massimo, grazie per aver accettato il nostro invito, c'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta. Non so come hai dormito dopo l'impresa, perché comunque resta un'impresa chiudere una striscia di imbattibilità come quella dell'Inter, no Massimo? Ma più che un'impresa nel calcio non esistono, nel senso che in campo vanno gli umani e gli umani possono anche sbagliare, può capitare una giornata tosca, quindi... Non mi piace parlare di imprese, mi piace parlare di una squadra che ha fatto bene, che tra tante componenti, anche se vogliamo metterci la fortuna perché fa parte di questo sport, è riuscito a fare una bella partita, portare via i tre punti. Avete fatto una grande partita, Massimo. Ma allora, anche nel primo tempo, quando l'Inter ha giocato bene. Sì. Guarda, ci sono le prove registrate questa mattina a Sky, ho avuto modo di dire questo preliminarmente al discorso sull'Inter. Ho fatto i complimenti a come ha giocato l'Udinese, al lavoro che sta facendo Massimo Oddo, ma non lo dico perché è qua lui, non lo sapevo nemmeno, sarebbe stato nostro ospite, però l'ho detto stamattina, a me l'Udinese con Del Neri, con tutto il rispetto che possa avere per un maestro come Gigi Del Neri, non piaceva. La partita con la Juventus era stata imbarazzante per certi aspetti. Questa è una squadra profondamente diversa e quindi bisogna anche riconoscere il lavoro di Oddo. Ma che è successo? Cos'è scattato nella testa? È cambiato invece? Perché poi spesso si parla di testa, invece bisogna analizzare come vengono messe in campo le squadre. Ma vabbè, ma il cambio di testa penso che sia normale quando c'è un cambio di allenatore, quantomeno nell'immediato. Poi la difficoltà è mantenere sempre alta la tensione, quindi una cosa abbastanza scontata, sicuramente c'è stata. E certamente c'è stato un cambio tattico, perché siamo passati alla difesa a tre, ma io ho semplicemente cercato di individuare quali fossero le caratteristiche migliori dei giocatori, e da queste scelte ne è venuta fuori che secondo me la squadra si sarebbe espressa meglio con questo tipo di modulo. Tutto qua, poi un po' di coraggio, un po' di... Peraltro, mister Odo, mi ripeti l'età, poi mi sto zitto, dei tuoi centrocampisti di ieri? Barak, adesso l'età precisa non so, però sono molto giovani, Fofana, Barak e anche sono molto giovani, diciamo. Facciamo un 21. Intorno ai 22 anni, ecco, esatto, dai. Sì. Più o meno la media. Insomma, non arrivano insieme in tre all'età della pensione. No, Pier, no. Come si batte l'Inter? Nel senso, non c'è riuscito nessuno, al di là ovviamente dell'interpretazione, degli episodi della partita, poi parlava anche di un pizzico di fortuna che nella vita non guasta mai, però insomma siete scesi in campo proprio bene. Come l'avevi impostata questa partita? E c'è un punto debole dell'Inter? Dov'è il punto debole dell'Inter? Ma noi abbiamo preparato, diciamo che abbiamo avuto due approcci diversi tra il primo e il secondo tempo, nel senso che nel primo tempo abbiamo provato a mandarli dentro con i centrali, a tenere le punte un po' più larghe, e non ci siamo riusciti benissimo, questo allo scopo di rimanere un po' più alti e non schiacciarci. Non è riuscita bene questa soluzione, tant'è che sulla fascia destra ci hanno messo in grande difficoltà. Ma questo per paura loro, per paura tecnica, qualità di giocatori che hanno. Nel secondo tempo abbiamo fatto una cosa un po' più scolastica, cioè quello di ovviamente mandare tutto, lasciare giocare i terzini e mandare tutto sull'esterno, e abbiamo sfruttato ovviamente in questo caso con l'abbassarsi della squadra di più le ripartenze, che in questa squadra diciamo che è la caratteristica migliore che sia. Sì. Ma hai visto una squadra nel secondo tempo un po' in difficoltà fisica? Perché è uno dei temi su cui ci si interroga. Abbiamo dato prima i numeri, di fatto c'è una squadra titolare che ha giocato quasi tutta, praticamente tutte le partite senza tirare fiato. Ma io non so se sicuramente un piccolo allora parte dell'Inter c'è stato, però a volte il caso coincide anche con un aspetto mentale. Noi abbiamo fatto una grande partita, diciamo che siamo venuti fuori alla distanza come un Inter, e quando ti trovi davanti a una squadra che corre, vedi che corre il limite e sta bene, insomma fai anche più fatica. A me piacerebbe dare il merito anche ai miei ragazzi, perché sì, se l'Inter non ha fatto una grande partita sicuramente ci sono i meriti dell'Inter, perché quando si perde si hanno sempre dei meriti, ma ci sono tanti meriti dei ragazzi che sono stati bravi a interpretare i momenti della gara. Esatto. E che hanno messo nettamente in difficoltà l'Inter. Adesso recuperiamo un attimo il collegamento con Massimo Oddo, la qualità è deteriorata. Oddo, che nelle prime 25 partite sulla panchina di Serie A, carissimo per Luigi, ha fatto 0 vittorie, sì, 24 col Pescara, perché una era Tavolino e una la prima in Udinese-Napoli, poi evidentemente ci ha preso gusto e ne ha messe insieme tre di fila. Adesso quando lo recuperiamo, sì, infatti adesso proviamo a capire questo è il vero tema. Che cosa scatta? Perché ti dico la verità, la mia sensazione sull'esperienza di Oddo, sulla prima esperienza di Oddo in panchina, è che Oddo abbia scelto anche in certi momenti se doveva fallire, comunque di fallire con le sue idee, non so come dirti, no? Nel senso che ha preso sempre una strada che è una strada, magari lo si può accusare di essere stato in certi momenti magari poco pratico. Lui ha cercato di costruire una mentalità e un'idea di gioco molto precisa, poi probabilmente il materiale umano che aveva a disposizione non era all'altezza per quel tipo di esperienza e per poter far bene, però le idee ce l'ha, le idee si vedevano pure prima, ce le ha. E adesso con l'Udinese sta togliendo delle soddisfazioni. Ovviamente la strada è lunga, sì. Perché non è, insomma, Roma non è stata costruita in un giorno, questo è ovvio, però insomma mi sembra che il percorso sia veramente molto virtuoso e molto positivo. Massimo, che intanto è tornato ad ascoltarci, meglio continuare con le proprie idee che cambiare, anche se i risultati per un po' sono negativi. abbiamo ripercorso le prime 25 panchine senza vittoria in Serie A, poi adesso una dopo l'altra tre consecutive. Sì, vabbè, ma queste sono fantasie, anche nel senso che io anche quest'anno, ma anche l'anno scorso, ho dimostrato di non essere fissato sul modo. Io tante partite l'anno scorso l'ho giocata a 5 senza nessun tipo di problema, non sono fossilizzato sul modo perché non è importante secondo me quanto noi ti concetti. Io quest'anno ho trovato una squadra che si adatta a questo tipo di caratteristiche. Io l'anno scorso, per quanto riguarda la squadra che avevo, io non potevo mai pensare di giocare come gioca adesso Bolognese, perché non avevo gente di gamba, di ripartenza. La palla, l'unica maniera per andare avanti è spostarsela. I lanci lunghi non potevamo farne perché non eravamo strutturati davanti per i lanci lunghi, e una gamba per ripartire. Quindi l'unica maniera per scara per poter portare la palla davanti era quella di arrivarci con il gioco. E indubbiamente, se vogliamo, aveva anche un po' più di qualità dell'Udinese. L'Udinese ha altre caratteristiche, perché comunque i vari Caprari, Brugman, gente di qualità, magari con meno capacità fisiche. E quindi se aveva la possibilità di giocare bene l'abbiamo dimostrato. Poi se davanti non fai gol, dietro fai un errore, questo è un altro discorso. Ti sorprendono le difficoltà di Gattuso all'impatto con il Milan? A proposito di giovani allenatori, gente però che ha un passato in campo importante, una credibilità da spendere, delle conoscenze, che ha studiato, perché comunque Gattuso è un uomo da 100 panchine. Ma in questi momenti conta poco l'aver studiato, no? È un momento difficile in una società che ha una storia importante alle spalle, e è ovvio che lì ha fatto la sua scelta, giustamente. Penso che l'avrebbe fatto chiunque se ti offrisse la partita della panchina mia, chiunque sarebbe andato. Però lui, credo che era molto intelligente, che sapeva benissimo quali fossero le difficoltà, quali difficoltà avrebbe trovato, quelle che sta avendo in questo momento. E dovrà essere bravo lui, ma soprattutto dovrà essere protetto dalla società, perché se la società ha fatto questa scelta deve proteggerlo fino in fondo, perché sennò diventa tutto più complicato. Pier? No, è verissimo. No, questo smonta anche il mito per cui un giovane allenatore possa dire no, io la panchina del Milan in corsa non la prendo perché so che rischio di bruciarmi. Ma non scherziamo. Tanto più che guarda, io c'è una cosa che mi sta piacendo della stagione terribile del Milan, che anche i problemi, l'onestà secondo me intellettuale, che è stata un'onestà che c'è stata all'inizio nel dire che veniva fatta una campagna acquisti molto forte perché bisognava provare a velocizzare i tempi. Poi sta andando malissimo, non c'è dubbio, però questa onestà c'è stata, e anche nelle parole di Gattuso che abbiamo sentito prima c'è questa consapevolezza. Apprezzo quelle di Massimo Oddo, penso che chiunque, anche lui probabilmente, se avesse avuto la chiamata da parte del Milan non avrebbe resistito, perché è normale, perché è giusto che sia così. E certo, la strada è in salita e fa effetto vedere il Milan così in difficoltà e fare figure come quella che abbiamo visto oggi. Assolutamente. Senti, hai già cominciato a pensare al Napoli? Gli esami non finiscono mai. C'è poco tempo, quindi abbiamo già da stamattina cominciato a fare qualcosina. È ovvio, le partite sono tante, abbiamo questa bella partita di Coppa Italia. Ci teniamo a fare bene, ovviamente, vogliamo sfruttare la nostra scia positiva e vediamo cosa succederà. Grazie Massimo. Ciao Max. Ciao. Grazie a voi. Grazie a Massimo Oddo. Facciamo Hiroshi. Buonasera, grazie per avermi convocato. Eccomi. Io purtroppo sono forse fuori tempo massimo, però io, a me Gattuso, sia come giocatore anche come allenatore, non mi è mai piaciuto tanto, però per esempio Oddo comunque è una persona, un giocatore, ha giocato nel Milan, ha giocato in grandi squadre, quando ha avuto la possibilità ha sempre fatto buoni risultati, col Pescara in Serie B, con una formazione competitiva. Chiaro, l'anno scorso non poteva fare tanto. Forse secondo me lui sarebbe stato l'uomo adatto, idoneo per sostituire Montella, anche se non sono neanche... Io credo, Hiroshi, che gli assenti abbiano sempre ragione. Quando una squadra va male, non so cosa pensi che tu. Anche Luca da Novara ci ha scritto: per favore vogliamo Oddo allenatore del Milan. Vabbè, però questo sai, adesso lo dico. È ingeneroso. Lo dico. No, ma soprattutto voglio dire, oggi chiaramente dopo che Oddo ha fatto un'impresa a San Siro contro l'Inter e il Milan ha forse toccato il fondo contro il Verona, è un pensiero di pancia secondo me di tanti tifosi del Milan. Che Oddo sia un ragazzo intelligente questo non lo scopriamo certo oggi, è una persona che ha anche fatto vedere delle cose molto interessanti con Pescara, prima ovviamente dell'esperienza italiana che è stata oggettivamente troppo complicata. Quindi Oddo deve continuare a crescere, Gattuso deve continuare a crescere. La mia sensazione è che i problemi del Milan non dipendano da un allenatore o dall'altro, che il Milan è in una fase ormai che dura da anni di difficoltà e mi pare che la strada per la soluzione sia ancora lontana. Sarebbe bello, sarebbe bellissimo per il Milan che ci fosse l'allenatore giusto, forse ci sarà anche da qualche parte un allenatore che arriva con una bacchetta magica e risolve, ma non ho la certezza di poter dire che sia il pur bravo e simpatico Massimo Oddo che si deve fare ancora secondo me le ossa quest'anno e questo può essere veramente l'inizio della grande carriera, no? Cioè, non è facile, sinceramente non è facile secondo me far lì e dire e fare i nomi, no? Cioè i nomi li possiamo fare quanti ne vogliamo. No, chi in questo momento non è sulla panchina del Milan ha ragione a prescindere per uno che guarda che cosa sta succedendo in questo momento alla squadra di Gattuso, ma era così anche prima. Le difficoltà di Gattuso in qualche modo dimostrano quanto sia di difficile soluzione questo problema, no? Perché Montella non è un fesso sicuramente, la sua carriera dimostra che non è un allenatore scarso, Gattuso comunque delle qualità ce le ha, questa è una squadra che ha dei problemi enormi e ha soprattutto un'aspettativa ormai e un debito nei confronti dei suoi tifosi e della storia del Milan talmente grande, talmente enorme che veramente alla prima difficoltà si rischia di andare col cervello in pappa perché anche per le aspettative che si erano create quest'estate. Va bene Pier, ti saluto, appena annullato un gol alla Spal a Benevento 0-0, siamo al 32esimo, partita importantissima per la nostra schedina. Ma dobbiamo attendere le ore 20 per capire se si mantiene il mio vantaggio, se riesci in qualche modo anche questa settimana a salvarti. A domani, ciao Pier. Ciao. Ci ha salutato, sì. Torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Aceto balsamico di Modena del Duca. Un profumo inconfondibile, frutto delle generose terre modenesi. Un aroma prelibato, unico. Dal 1891 sulla tua tavola e su quella dei tuoi amici più cari. Per un Natale al vertice del sapore. Aceto balsamico del Duca.it. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Benvenuto nel sistema CombiBox. Inserire codice. Inserito. Impianto totale. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema CombiBox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli CombiBox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni e goditi la tua tranquillità. Sempre. CombiBox ti protegge, ovunque tu sia. CombiBox. Enjoy life. Safely. CombiBox.it. Il Natale sembra non arrivare mai, come i capolavori della casa vinicola Sartori. L'amarone della Valpolicella e il Valpolicella Ripasso Sartori, sulla tua tavola solo dopo un lungo affinamento. Eh sì, per la qualità Sartori serve tempo, ma non vedi l'ora di fargli la festa? Ancora un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare. Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Nei supermercati Alì e centri Aliper, abbiamo ribassato il prezzo di tanti prodotti della vostra spesa quotidiana. Supermercati Alì e centri Alì per. Ogni giorno la genuinità, i sapori migliori, la cortesia e la convenienza di sempre. Prezzi ribassati. Non è una promozione, è una promessa. Anche a Natale. Alì e Alì per. Qualità al prezzo migliore. La partita col Torino ci ha tolto dei punti importanti, ci ha tolto un giocatore per noi molto importante, però come ho detto dovremo andare a Bergamo lasciandoci alle spalle tutto quello che è successo, sperando dopo quello che è successo a noi ci sia più attenzione insomma verso tutti, perché le cose che sono successe a noi sono state sotto l'occhio di tutti. Vuole commentare qualche cosa su questo gol o parliamo della partita? Ma credo sia più giusto parlare della partita, perché si parlano sempre di episodi che poi sono importantissimi, ma noi magari potevamo farlo prima questo gol. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria, al di là che si vede proprio, io penso che sia tutto attaccato al corpo, poi non so benissimo se si prende. Questo è Simone Inzaghi, che parlava di settimana scorsa, e di Francesco, che parlava invece di ieri sera. Luca Marelli, ciao. Ciao. Ci chiede un amico se la Juve ha giocato oggi. Ne abbiamo parlato per più di mezz'ora all'inizio del programma. Ha giocato e ha vinto 3-0 a Bologna, quindi ci abbiamo fatto l'apertura. Stiamo parlando anche di altro, ma se volete 800-24-00-24, siamo qui ancora fino alle 19. Facevo una riflessione ieri che allargo a tutti. Pensate cosa sarebbe stato oggi senza il VAR, dopo un sabato in cui abbiamo visto interventi decisivi. Anche oggi a mezzogiorno e mezzo tra Verona e Milan c'è stato qualcosa che ha riguardato questo nuovo strumento, no Luca? Sì, non è stata una gran giornata, scusate la voce intanto perché veramente... Sì, ma è un mal comune. Esatto, è un mal comune oggi. Questa è la trasmissione dell'influenzante oggi. Vai. Sì, no, è stata una giornata piuttosto negativa fino adesso, ci sono stati un po' troppi episodi, non tanto grigi ma proprio sbagliati. Iniziando a Verona ci sono almeno due episodi, che sono anzi tre, partendo dall'espulsione di Suso che ci sta, tutto sommato, perché fanno un gesto abbastanza sconsiderato, visto la VAR ci può anche stare, ma diciamo che ci sta. Quello che non quadra è il giallo a Borini. Abbiamo parlato tutta la settimana di tentare di colpire un avversario. Borini in questo caso l'ha colpito, il sì. Gesto di reazione mi pareva abbastanza evidente. Se l'è cavata. Esatto, e poi francamente sulla munizione di Romagnoli con Ken lanciato verso la rete non riesco veramente a capire per quale motivo il VAR Aureliano non sia intervenuto per segnalare il Chiara Doxo. Questo è abbastanza cioè il fallo su Chiara, occasione da rete, esatto. Il Doxo. Ma Roma-Cagliari era buono o no il gol di Fazio? Perché si è aperta tutta una letteratura. Beh sì, sì. Non ci sono grandi dubbi, no? Beh. Secondo me sì, ma dire non ci sono dubbi, beh, visto e fare un passo ulteriore. Col VAR non ci sono dubbi, mi pare. Ma allora, bisogna fare un distinguo, se parliamo di VAR o se parliamo di Moviola. Allora, se parliamo di VAR, i VAR non dovevano intervenire in quell'episodio perché non c'è un'immagine chiara che ci dica che Fazio interviene volontariamente con la mano, col braccio, con l'avambraccio sul pallone. Devo ricordarci sempre che il fallo di mano è l'unico fallo che prevede la volontarietà, è imprescindibile la volontarietà. Per quanto riguarda Moviola possiamo dividerci da adesso fino all'eternità. Sì. Assegnare un gol con un tocco di mano è sempre difficile, su questo io concordo. Ma sostengo la tesi che a mio parere è un tocco totalmente involontario, se c'è. E perciò il gol a me pare regolare, anche se capisco chi abbia delle titubanze nel ritenerlo tale. Sì, oggi poi abbiamo visto in Sampdoria-Sassuolo sul rigore sbagliato da Politano, parato da Viviano, respinta, si è accesa una clamorosa mischia, c'è una parata letteralmente di Torreira per terra a un metro dalla linea di porta. Allora, giustamente, secondo me, la domanda è come si fa non tanto a non vederla a velocità normale, dove era veramente un momento di mischia, quindi può anche sfuggire all'occhio dell'arbitro. Ma come si fa a non segnalarla dopo, dopo pochi istanti, dopo pochi secondi? Ormai, insomma, il modo l'abbiamo visto. Sì, no, il problema è che oltre al calcio di rigore, che è evidentissimo, ci sarebbe stata anche espulsione del giocatore Torreira, perché il pallone stava arrivando a un giocatore del Sassuolo davanti alla porta senza portiere e nettamente in vantaggio sul difensore. Sappiamo che l'espulsione per chi ha l'occasione da rete si concretizza anche nel momento in cui il giocatore ha una facilità di impossessarsi del pallone nell'immediatezza. Non so, sono un'ora che cerco di spiegarmi il motivo per cui il tagliamento non sia intervenuto. Intanto c'è un silent check di VAR che diventa invece VAR in questo momento in Benevento Spal per un tocco di mano di un difensore del Benevento dentro l'area di rigore. Io onestamente credo che non possa essere rigore mai, però evidentemente chi sta nella stanzina del VAR e quindi Maresca la pensa diversamente, perché ha chiamato l'arbitro, che è Pasqua, a rivedersi l'azione. Comunque, ieri è stato, mi pareva tutto molto casuale, è stato emblematico. Sì. Sì, poi ti dico una cosa io. Sì certo, l'inciso è questo: Lazio Torino è stato un po' spartiacque, a mio parere. Abbiamo visto in questa giornata una quantità infinita di ricorsi alla VAR, cioè è stata utilizzata molto di più rispetto alle giornate precedenti. Nelle ultime due giornate era stato usato 3-4 volte in totale. In queste prime 9 partite, 8 partite e mezza, credo che siamo arrivati a una quindicina. Mi pare di aver capito che non abbia dato il calcio di rigore, ma sta facendo una lunghissima corsa verso... Bah, non lo so. C'era una direttiva in tal senso. Si riparte, credo, con una palla scodellata a 2. No, lo racconto perché ha ragione Luca. In realtà è bastata una settimana di polemiche e si è di nuovo tornati al vecchio stile, quello in cui il VAR viene chiamato in continuazione. Beh, ma d'altra parte c'era una direttiva, una norma non scritta, una raccomandazione, chiamatela come volete, ad utilizzare il VAR in una certa maniera. Quindi interpretazione restrittiva in questo caso del regolamento. Secondo me è stata emblematica la situazione del rigore concesso ieri all'Udinese, quando c'era l'arbitro che non era sicuro, adesso dico una malignità, non era sicuro di quel tocco di mano abbastanza solare. In quel momento non se l'è sentita di assegnare il rigore a velocità normale, e quindi abbiamo visto quella situazione che abbiamo visto mille volte in passato prima della tecnologia, per cui risolviamo salomonicamente la storia, palla fuori e quindi gioco fermo e palla dell'Inter. Invece poi non era così, io l'avevo intuito anche velocità normale, però quante volte abbiamo visto una decisione salomonica di questo tipo? Sì, no, ti dico la verità, è un dubbio che è venuto anche a me, ripetendo l'azione. Tra l'altro ero lì a pochi passi da San Siro, perché stavo osservando da una posizione privilegiata la partita. E ho avuto anch'io questa sensazione, e probabilmente il VAR serve anche a questo, a evitare che arbitri con un'esperienza molto limitata come Mariani si possano fare tra virgolette intimidire dal luogo in cui si trovano. Ieri tra l'altro è un episodio veramente molto chiaro, ma le polemiche che si sono sviluppate oggi attorno a questo episodio fanno capire che non è soltanto il problema protocollo, è proprio il regolamento che non è conosciuto. Sì, perché c'è una certa difficoltà. Bene, grazie Luca. Ciao Luca, a presto. Grazie a voi. Mille. Grazie Luca Marelli. Ovviamente il rigore non è stato dato, ovviamente andiamo in traffico. Quando torniamo chiudiamo con le romane, 0-0 Benevento Spal 43esimo, e poi ci sono anche Stefano e Filippo. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Stefano da Roma, Stefano. Pronto? Vai. Allora, in questa giornata abbiamo visto due belle partite da parte di Juventus e Napoli. In precedenza abbiamo visto l'Inter giocare molto bene e anche la Lazio giocare molto bene. L'unica convitata alla tavola che non ha mai espresso un bel gioco è la Roma. Beh, che è a Verona col Chievo non aveva giocato male, però. No, ma anche aspetta, sentiamo. No, a Verona secondo me aveva giocato bene. Prego, ragazzi. Stefano, però. No, intendo dire che è stata presa di peso e accompagnata alla tavola come si fa con dei parenti un po' acciaccati. Tu dici dagli arbitri, dal VAR, da tutto, dai. Dagli arbitri e dal capo. Chi è il capo, perdona? Il capo dello sport italiano. Malagò, addirittura. Vabbè, non so, addirittura. Ha influito anche sul Chelsea, che è stato preso a schiaffi all'Olimpico. Mi sembra un po' troppo, cioè, Malagò ha avuto influenza anche su Conte, sulla federazione inglese. Sull'UEFA quando il Chelsea in Champions League è stato preso a schiaffone all'Olimpico? Cioè, non è tutta ironia nella vita. Esistono anche delle cose reali. Esiste, che questa squadra ha avuto 14 interventi a favore dal VAR e nessuno contro, se facciamo eccezione del primo, quella partita con l'Inter famosa. Altrimenti tutti gli episodi del VAR hanno favorito la Roma. Sì, però Stefano, perdonami, ad esempio ieri il primo degli episodi del VAR ha tolto un'ingiustizia clamorosa, perché Dzeko tutto tranne che aveva simulato nel contatto col portiere del Cagliari, quindi secondo me era un intervento sacrosanto. Poi abbiamo ricostruito prima quello che è successo sul gol di Fazio. Io credo giusto lasciar correre così come è stato, anche se capisco le discussioni. Però mi pare che se ragioniamo della Roma come di un convitato portato lì dal palazzo e dal potere, mi sembra che siamo completamente fuori strada. Roberto Renga, ciao. Sì, ciao, stavo sentendo. Andrebbe avvisato subito Malagò, bisogna dirgli che è diventato potentissimo. No, ma lui lo sa di essere potente, dai. Ma addirittura da condizionare il VAR e gli arbitri. No, così no. E perfino l'UEFA, perché... L'UEFA, sì. No, perché Roberto, hai capito, è stato Malagò comunque. Tutto Malagò. A zuccherare le bevande del Chelsea in modo che prendessero tre schiaffoni all'Olimpico. Sì, mentre sentivo l'ascoltatore, pensavo che era presidente del CONI Gianni Petrucci e che era in quel momento anche commissario della Federcalcio quando la Roma vinse lo scudetto, quello di Capello, e Petrucci è notoriamente laziale, cioè non è che basta si vede che era meno potente era addirittura commissario e presidente del CONI. Ma la Roma è da scudetto? Te lo dico così a bruciapelo, perché la Roma ha 38 punti, una partita in meno, potenzialmente ne ha 41 come la Juve, uno in meno del Napoli, uno in più dell'Inter, però poi ci sono tanti ragionamenti da fare. La Roma mi ha convinto solo nelle partite di Champions e lì mi è piaciuta moltissimo, nelle due partite con il Chelsea. E per il resto no, non, raramente mi ha convinto, e ultimamente certo ha sollevato dei dubbi per il gioco. Però non è vero che viene portata avanti, se i punti contano, i punti sono quelli. Ma non scherziamo, perché quando la Roma è meno forte dell'Inter, aggiungo, è meno da scudetto rispetto all'Inter. Guarda, io questo non te lo so dire esattamente, però perché è stato un momento in cui l'Inter ha giocato veramente bene, no? Prima di dimostrarsi stanca, almeno a mio avviso, nel secondo tempo di ieri. Mentre la Roma questa grande sensazione me l'ha data solo con l'Inter quei famosi 70 minuti, quando il VAR poi l'ha penalizzata, no? Perché questo il nostro amico lo deve ricordare. Sì, è anche un pizzico di cattiva sorte, no? Pali, tutte queste cose. Le partite adesso vanno anche in prescrizione, e tra l'altro quella partita dell'Inter fece una grande partita restandoci e poi dominandola negli ultimi 20, perché ma io infatti non sto dicendo che l'Inter l'ha rubato, per carità, fu una partita bellissima, ricca di colpi di scena, magari il calcio fosse sempre così. Dico che la Roma non mi ha mai entusiasmato, però la Roma è lì. E la Roma non credo che possa peggiorare, può solo migliorare, perché ricordiamoci che rispetto all'anno scorso c'è solo Kolarov in più, E manca Salah e manca Rudiger. Io allora introduco l'argomento che ieri ho avuto la riconferma che in questo momento Schick è un problema per Di Francesco, perché non può giocare al posto di Dzeko, lo abbiamo visto a Verona, non può giocare insieme a Dzeko, lo abbiamo visto ieri, perché i due sono due prime punte, in questo momento serve troppo lavoro per poterli amalgamare, e però devi farlo giocare perché è costato più di 40 milioni per tanti motivi. Io resto convinto così, l'ho detto anche settimana scorsa, però... È un bellissimo problema, però. Sì, per carità, un grandissimo potenziale, però oggi è così. Adesso, allora, lui non sta ancora bene. Ieri ha provato a fare l'ala e a rientrare un paio di volte, l'ho visto anche fare il terzino, ma cose da ala gliel'ho visto fare solo in un'occasione, un cross ribattuto. Sì, però Roberto, è un grandissimo potenziale, ma se non segna Fazio il 95esimo, la Roma fa due punti in due partite. La Roma non li fa i gol. La Roma ha grossi problemi davanti. Attenzione, manca Salah. Mancano i gol di Salah. Salah quanti ne aveva fatti l'anno scorso? 9-10 a questo punto. Che sono a questo punto, sì. Alla fine di più. In Premier, come abbiamo visto, è già arrivata a 15, mm-hmm. No? Tra una partita e l'altra. E Salah è una grossa mancanza per la Roma. Soprattutto per Dzeko è una mancanza, mio caro. Come, scusami? Soprattutto per Dzeko è una mancanza. Ci picchia, perché Dzeko era abituato a dare la palla a destra e la sa lanciare benissimo a Salah, e poi Salah andava in porta oppure gliela ridava. Adesso deve cambiare modo di giocare con Schick, ma attenzione, non solo con Schick, ma se non gioca Schick lì all'ala destra chi c'è? Under non è proponibile, De Frel abbiamo visto sta male, non è proponibile, e chi c'è? E alla fine vai con il Sharabi che a destra non si trova, oppure devi avanzare Florenzi, però Terzino poi non ci gioca nessuno. Secondo me sta facendo i salti mortali. Sì, e sta facendo anche i miracoli. Io accomuno di Francesco a Spalletti, cioè di Francesco potenzialmente 41 punti, Spalletti 40 punti fatti, stanno andando oltre quelle che sono le attuali di questi mesi possibilità delle loro squadre. Questa è la mia opinione. Sì, ma è anche la mia. E la cosa strana è che ormai c'è questa rivalità, soprattutto a Roma, no? Come sai, Roma Spalletti non è visto benissimo dalla tifoseria romanista, mentre in questo momento è visto benissimo di Francesco. La realtà è che stanno facendo molto bene entrambi, su questo non c'è dubbio. Assolutamente, grazie Roberto. Ciao Roby. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie Roberto Renga, finito il primo tempo di Benevento Spal 0-0. Ci chiede un amico cosa sta facendo il Nizza di Balotelli. Ha vinto 1-0 contro il Bordeaux, gol di Balotelli dopo grande. 36 minuti. Filippo da Monza, Filippo. Sì, buonasera. Vai. Volevo salutare tutti, due osservazioni brevemente, in poche parole. L'Inter è vero che non ha ricambi, col Pordenone si è visto, perché chi è entrato dentro ha fatto, si sono mangiati un sacco di gol, tranne Cancelo che poi è uscito alla distanza. Invece per quanto riguarda contro l'Udinese, io non ho notato una cosa, che Perisic nel secondo tempo era la frutta e in effetti non c'è un ricambio, e Perisic è un grande giocatore. Però ho visto anche che Brozovic, io sottolineo la qualità, secondo me, entrava molto bene negli spazi, correva molto, ma quando era il momento di servirlo e aveva, non dico delle praterie, ma quasi, si fermavano e cambiavano gioco. Questo è un errore dell'Inter. E Spalletti, secondo me, ha fatto male a togliere Brozovic per mettere Gagliardini, cioè come se avesse fatto un passo indietro e sì, abbiamo pagato le conseguenze. Però Filippo l'ha fatto nel momento in cui l'Inter non riusciva più ad arginare le ripartenze dell'Udinese. Poi certo, dopo 5 minuti prendi il gol e da lì in poi ti sarebbe servito Brozovic, però a quel punto tu il cambio l'avevi fatto. Secondo me una logica in quel momento storico della partita c'era, perché l'Inter stava facendo fatica a tenere l'Udinese lontana dalla sua porta sulle ripartenze, quindi lui ha provato a mettere uno schermo e a dare un po' più di fisicità in mezzo. Poi le partite sono fatte anche di episodi. Va bene, noi ci fermiamo qui. Allora, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia questa sera alle 20.45 Atalanta-Lazio, che è uno spareggio. L'Atalanta per entrare con due piedi di nuovo nella zona Europa League, e la Lazio per capire se può sfruttare lo scivolone dell'Inter. Ci risentiamo domenica alle 17. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.